soprattutto sulle normative infatti Nathalie, l'elettronica è un conto, anche le normative, però ricordati, ban plan, quelle cose lì, dove puoi andare, dove non puoi andare, eccetera. Cosa c'entra il ban plan? Non te lo puoi ricordare a memoria, no? Le normative beh, ti chiedono, e le domande di elettronica. No, ma le ban non le chiedono, però ti possono fare anche una domanda inerente a qualche frequenza, capito? Operativa è per dire i 40 metri da roba a dove e un ripasso totale ci vuole, però è già più facile rispetto a quando durante io 5 ore di cosa di stanza chiusa, cazzo, mamma mia, a Chappella, non mi ricordo, insomma, ma mettere là e ci avevo davanti perché eravamo uno dietro l'altro, non a tutti e due, ma 90 persone, cazzo, fiago di bere, fiago di sudore, cazzo, ucci. Carlo, se ti siamo lasciando in bianco, riprendi. Io mi ascolto qua, facendomi due risate. Oh, iaia, Nathalie, secondo me, come dice Claudio, non ti fanno fare scritti, eccetera. Sarà giusto il colloquio orale e ti chiederanno, sì, la legislazione, insomma, oppure le cose di elettronica, oppure domande sulle frequenze, da dove a dove, come ti ha detto prima Claudio, credo che sia molto più facile, immagino di sì, comunque se hai la fibra non dovresti avere nessun problema di connessione, per cui appena hai l'occasione siediti e prova, l'ho capito, tentare non nuoce. Comunque da 7.000 a 7.200, giusta è la domanda, Claudio. Per i 40. Sì, può essere anche quella. Può essere anche quella in quale ti possono chiedere anche qualche domanda di telegrafia. Capito? Dipende, Nathalie, dipende. Rispetto a Roberto le ho chiesto delle cose abbastanza semplici. Molto, molto semplici. Infatti alla fine di tutto qua. Lo conosci Bussonaldo. Però non è preparato, sa quello che deve rispondere, vabbè, di scritto non c'è niente, non ti permettono di fare calcoli, di fare, no, è tutta domanda e risposta, non come detto, un colloquio orale via computer, capito, e basta, in videoconferenza, nulla di che, appena c'è il computer ti chiedo nome, cognome, bumba, i tuoi dati, che loro già stanno guardando sul video perché ce li hanno, e poi ti presentano la commissione, capito? Ricordati che sono tutti ingegneri e dottori, dottor Tizio, buonasera dottoressa, buonasera ingegnere, buonasera caro Roberto, buonasera signora, e il presidente Croce ha detto, signor, non dico il cognome, la signora che lei ha citato è la dottoressa, quindi dia il titolo alla dottoressa, ok? Arrivi Busalda, ci ripresenta un nome e cognome, ingegnere, quindi buonasera ingegnere Claudio, buonasera dottoressa Giovanna, buonasera ingegnere Natalino, capito? Tu dai i titoli, a chi era Roberto l'hanno ripreso, a chi era dottoressa, adesso mi ricordo come si chiama, fa il cognome, ecco, buonasera signora, ingegnere, presidente della commissione, l'ha detto, signor, dia il titolo a chi è in conferenza, in videoconferenza, ah mi scusi dottoressa, buonasera, capito? Tu cosa opinioni? Beh, quello sì, cosa ti volevo dire? Cazzo, ma uno tutte le telegrafia non te ne possono chiedere, come fanno a chiedersi la telegrafia quando non c'è? E poi mica mi devo studiare la telegrafia, sennò io era biglivona. No, possiamo chiedere, no, ti possiamo fare anche una domanda di dove si va in telegrafia, su quale banda, capito? 7.050, 7.040, ma è difficile perché non te solo chiesto domande inerenti alla normativa e qualche domanda di, per una domanda di elettronica, ma molto facile. E poi la GCI ha domandato. Roberto ha fatto 5 su 5, quindi no, non è un problema. Non se ne fai 5 su 4, va bene lo stesso su 3. Sì, lo so, lo so. No, se ti chiedono quelle domande lì di telegrafia, lì vi dire a ogni inizio a banda, molto ci vuole. Sì, Nathalie, ti volevo dire, al limite potrebbero chiederti per esempio della banda V, della banda U, magari qual è la porzione riservata alla fonia, qual è la porzione riservata ai modi digitali, oppure la porzione dedicata all'SSB, all'ingresso satellite, uscita satellite, quella roba lì. Non era fottinuta, no, i satelliti e dello Leandro, il viaggio Leandro, non era fottinuta, lo sa, nella fottinuta, la presente commissione, ma la commissione è che i satelliti, ma aveva lui, ne era fottinuta. Fanno le domande inerenti alla sedizia amatoriale, ma soprattutto in normative, capito? Se si accorgono che sei preparato, che hai studiato, ti dicono va bene, a posto, capito? Tutto qua, l'ho assistito e... Vabbè, ma quello è inerente al coso amatoriale. Cioè, sono i satelliti, vabbè, quelli in UHF, quello AO51 come si chiama. C'hai un ingresso satellite, un'uscita, vabbè, tu praticamente ascolti gli altri, no? Come un ponte ripetitore. Ma dubito che scendano, ma no, non credo che siano così pignoli da chiedersi appunto tutte le porzioni, lì dove cosa puoi usare, che modo di emissione, che tipo di sistema, non credo che siano così pignoli. Va bene, Carlo, vai, riprendi. Insomma, un bel impegno e comunque, dai, perché devi prepararti bene, se no rischi di fare, insomma, cilecca. Quindi normative sicuramente e l'elettronica per me puntano su quello che sono le cose fondamentali, capito? Poi sì, qualche si discosteranno così magari chiedendoti idee per vedere se sei pratico delle frequenze più o meno, ma magari le cose precise saranno quelle là sempre. Comunque Natali, non ti scoraggiare, studiati le normative, l'elettronica, i calcoli falli comunque perché magari ti servono per te, per capire meglio, capito? Poi non te li faranno fare ovviamente, ma insomma se ti servono per fare gli esercizi, quelli vanno fatti comunque. Vai Natalino. E io qui ci ho usato la calcolatrice perché c'era una domanda, cazzo, che dovevi fare i calcoli per forza per sapere il risultato. Se no non lo sai il risultato, tanto per dire, della resistenza totale, della capacità, tutte queste cose qua. Se non fai i calcoli non lo sai, serie parallelo, ti chiederanno. Tu il calcolo li hai già fatti, memorizzateli, mettiteli in testa, quanto fa 1 più 2? Ok, quel calcolo è 2, quanto fa quello? 4, quel calcolo è 4, nel caso te lo chiedono, papà, devi dare la risposta, non troveranno il tempo di scrivere. Ok, la faranno in un modo che devi rispondere, botta risposta, in modo che non devi scrivere. Ti chiederanno il codice Q, le abbreviazioni, quelle cose lì ti chiedono. E quelli devi sapere a memoria. Per caso, per la chiesa non devi rispondere. Tata. 1 più 1, 2, 4 più 4, 8. Non è che ha scritto devo fare il calcolo, no, non è calcolo a mano. A memoria, proprio che un colloquio, una videoconferenza, e boh. Domanda e risposta, devi sapere rispondere, se non sa rispondere, ti dicono ci vediamo il prossimo anno, se c'è ancora attenzione perché alla fin fine questa cosa va a sparire, tutto qua. Va bene, avanti, c'era anche Antonello, non so che fine ha fatto, ma dopo ci sei, no, forse dovevo andare con Giovanna a fare la spesa, e prendi tu Marco che mi allontano un attimo, va bene. E poi fanno l'esame tipo strip poker in videoconferenza, se tu sbagli una domanda ti devi togliere un innuendo, se la azzecchi se lo toglie la dottoressa. Che sei proprio un cuoco, ma meglio. Basta che non ti scrivi sul palmo della mano le risposte, mi fai finta di sbadigliare, no, con la mano. Dice, cosa sta guardando sul palmo? Faccia vedere il palmo della mano, tipo alle sua scuola, alle elementari. Vai Carlo. Vabbè, un po' di timore quando si fa un esame c'è sempre, quello è ovvio. Più o meno, Natalì, quando dovrebbe essere questa sessione, diciamo, di esami? In autunno o adesso, nel periodo estivo? A ottobre. Allora, al fresco, diciamo che la memoria funziona anche meglio, da già iniziare a rinfrescare a ottobre, e quindi va meglio, piuttosto che d'estate, insomma, col caldo torrido, non credo che si riuniscano neanche lì alla commissione. Io non l'ho mai, diciamo, provato, né mi è venuto in mente di farlo, capito, ma penso che la tendenza sarà quella di cambiare anche il programma, capito, perché in passato avevo letto qualcosa sul programma ed era molto, molto, molto vasto, capito, l'elettronica c'era quasi tutto, di elettronica è uno che non ha mai studiato quelle materie lì, insomma un po' di difficoltà ce li ha se non fai un corso, eccetera. Diciamo è difficile da digerire. Poi per quanto riguarda abbreviazioni, frequenze, quelle cose lì, dovrebbe essere più semplice, capito? La legislazione magari lo stesso, non credo che sia difficoltosa, una volta che te la leggi capisci e quindi te lo dovresti ricordare, quindi a domanda ci pensi un attimino e dai la risposta, capito? Non credo che ti mettano fretta, capito? Uno può anche pensarci un attimino, allora e rispondi piano piano, poi ti viene in mente, capito? Vabbè, già ce l'hai anche il tempo, e se stai facendo il corso, stai studiando da prima con i libri, dovresti farcela bene a ottobre, perché ci sono diversi mesi, giugno, luglio, agosto, settembre, sono insomma 3 mesi, quasi 4 mesi, dai, dipende da quando è a ottobre, quindi non ti scoraggiare, Natali, provaci, magari puoi incoraggiare qualcuno di noi, ci proveremo anche noi così. Vai Natali. Marcolino Condor, glielo ho detto di venire al corso, sei un po' qua, ma ne è. Sì, ma sei Natali, non ti avvieni, che tenti di prendere anche la patente, perché io non ne faccio attività, soldi da spendere, roba da piazzare, tempo da... Non c'ho la passione, al baracchino due chiacchiere così, ma lì potevi stare a loggare ogni collegamento che fai, perché c'è il log di stazione, no? Lo devi fare quello lì. No, non è per me, è troppo ordinati bisogna essere, io sono caotico. Non proprio una giugana, era passata già tempo fa. È inutile prendere una proprio per fare cosa, per non fare nulla, per non fare attività, non me ne prendo direttamente. Esatto, più o meno anche io i motivi sono quelli, perché 4 chiacchiere così al baracchino le fai, puoi fare anche qualche DX quando c'è propagazione, può essere anche divertente, però poi da dedicarci molto tempo a fare cose, anche perché non ho lo spazio, non vivendo in un appartamento, non credo che hai bisogno, cioè ci vorrebbe spazio anche per provare diversi tipi di antenne, da me è un pochettino complicato, capito? Quindi anche per quello, e poi non l'ho fatto prima, non credo di farlo adesso, capito? Vabbè, cercheremo di fare altre cose, però dai, magari continueremo a divertirci col baracchino, finché va, e poi basta. Vai Marcolino. Sì, che poi vabbè, uno dice la prende, almeno uno si può utilizzare magari qualche cosa in macchina, uno può fare attività anche dalla macchina, d'altronde Vittorio ha sempre fatto attività dalla macchina, anche con ottimi risultati, Natalì, Vittorio Giove, no? Vabbè, è che io non aggiungo, la mente non è sgombra, poi situazione familiare al momento è un po' così, quindi c'ho altre preoccupazioni, in poche parole. Riprendi Nathalie, vado a bere anch'io. Ma infatti non ha detto bene, non mi sono di piantare in sette piante, ne c'ho Carlo, piantare voi. Due lì una carino, ce l'ha già, e con la verticale fa i 10 metri. Per ascoltare tutto e detenere, io l'avevo presa per la detenzione, mica per l'uso, mi fa piacere a me di fare il collegamento, non l'ho mai fatto io, non mi interessa, ho avuto un bell'impianto ma non l'ho mai utilizzato, la fiera ho venduto. Non sono di quelli, io l'avevo presa per la detenzione perché io dall'85-86 che usavo questo tipo di radio barattino, non ne ho mai usato io, quindi mi tartassava l'escoradio, ho capito. E alla fine quando la patente puoi detenere quello che ti pare ti piace, anche se non lo usi, però ce l'hai, sei in regola. Quello che serve anche una Natalina, poi si può fare due chiacchiere, due nuche, lui piace, c'è un sacco di amici, può usare 10 metri, può usare tranquillamente la verticale in 10 metri, in 20 metri, nelle frequenze normali, così in verticale come faccio io, cosa di una fruttina, non è che è tutto lì, però almeno c'ha, capito, un bye Natalina. E infatti, almeno mi posso fare due chiacchiere con gli amici. C'è gente che ha dirata, mi ha fatto le luci perché non ha preso la patente, perché sapevano che io facevo attività, capito? Io lo so, Carlo non ti conosce, io sì. Lui è... Le piace avere queste cose, poi sei più tranquillo, sereno, anche la posizione in cui ti trovi lì, col casino che c'è, capito? Un po' di suoi debiato, sì, va bene, chiama, sì, buongiorno, pronti, partente di Betta, eccomi qua. Quindi, ecco, adesso domani mattina metto un tubo al centro del viottolo, ok, metto un traliccio io al centro del viottolo e tiro su l'antenna, bene va. Perché stai attento, Carlo, che noi radioamatori non possiamo montare le antenne solo negli aerei. Se io viaggio in treno, mi porto la radio con la base magnetica, l'alimentatore e mi metto a trasmettere dal treno, capito? Sì, beh, certo. Il treno non ha le strumentazioni delicate che ha un aeromobile, quindi là sono, diciamo, molto sensibili per le interferenze di qualsiasi frequenza agli aeromobili, non certamente i treni che hanno tecnologie più di base, capito? Quindi è possibile utilizzare anche in treno, insomma in terra, le apparecchiature radio, quello lo immagino, capito? Però mai dire mai, magari vediamo un po' come va più avanti. Certo è che se dovessero togliere queste sessioni di esame online collegati in videoconferenza, penso che sia più difficile poi sostenerlo a Cagliari, capito, con tante domande in più e magari anche quello che ti scoraggia, capito. Adesso vediamo come va Natalino poi, non è detto che appunto facendo un tipo di, diciamo, di stazione anche piuttosto semplice si può fare lo stesso, come hai fatto tu, che non hai tantissime antenne, magari hai quelle essenziali che ti permettono di andare un po' su tutte le bande. Certo, già un po' di spazio in più non guasterebbe, tu potresti mettere anche il dipolo tranquillamente, io mi verrebbe un po' in salita da me, capito? Io ce l'ho il dipolo, non l'ho piazzato, 15, 20 e 40, non mi interessa, capito? Ho montato la verticale per tornare e l'ho tolta subito, non mi interessa. Ho un balo 91 da fare una rondeguaia lunga 50 metri, la posso buttare in campagna e fare tutto con quella. Ma non mi interessa, non ho mai avuto questa grande passione, ho capito? Ora magari ce l'ho per ascoltare, per mi piace il bue di U, ma in questo periodo non sto facendo neanche quello. Tutto qua, però è così. E così, viene a Natalino, sono fatti in Italia, c'è la macchina, capito? C'è la macchina, c'è la radio, perché è che lo impedisce? Prende il K, lo mette nel sedile, si compra il kit, quello che c'erano tutti, 10, 15, 20, 40, 80, la base magnetica sulla cappotta. E c'è la domenica mattina, il sabato, qua non ne ha voglia, va, ci fai collegamenti che le piace, capito? Mi scusa il telefono, vai Natalino. Noi già in campo e piazza la stazione in macchina. Ho subito un VHF, una ribanda, ma no. Vabbè, comunque dai, provalo tu Natali, poi vediamo. Io spero che tu lo possa passare, così ci incoraggi, magari qualcuno di noi ci prova, capito? Se lasciano queste versioni di, diciamo, di esami fatti in questo modo, è un pochettino più allettante la cosa, capito? Magari anche più semplice, oppure spero che riducano anche i programmi per farlo in presenza, e così, che sennò poi alla fine il mondo della radio pian piano perderà sempre di più il numero delle persone, capito, che si appassionano, se la fanno molto complicata, perché comunque, tornando a quello che dicevi prima, mi sa che gli esami di di alfabeto Morse, quelle cose lì le avevano già eliminate. Mi confermi Natali? Sì, la fotografia sì, non te ne possono fare di quelle domande, a parte che gli devi dire come, cosa vuol dire, tanto per dire, punto linea, quelle cose chi se le ricorda? Io qualcosina mi ricordo, ma quando c'era, e adesso no, e c'avevo anche un bel poco col tasto, cazzo, solo che non chi se lo ricorda più quelle cose. Registrato, avanti, buonasera. Buonasera a todos. Mia Gianni, eccomi qua. Ma non ti domandare nulla, Natali, ma già devi domandare, non ti domandare più nulla, però cosa ti chiedo, tu vai su quelle cose lì e basta, poi c'è domanda e risposta, boh, non devi scrivere niente, devi solo rispondere, ciao. Ciao Claudio, ciao a tutti gli altri amici, dai, non so chi ci sia. Natali, ti ho mandato un messaggio, ho letto là. Negativo. No, ho provato a chiamarti quando ho ricevuto la telefonata, ma mi ha risposto la segreteria telefonica. Se c'è un messaggio adesso lo guardo. Kappa. E allora, ragazzuoli, caldo ce n'è? Sta benissimo a casa, ci sono 22 gradi dentro e 29 fuori, sta benissimo. Perché stai facendo così basso il radio? Macchina sì. Basso sono. La radio. Perché il microfono è normale. È un po' barattolata Gianni. Microfono normale. Microfono normale di che radio? Del 3009. K. Va bene allora, ci sta benissimo. Vai caro. Ciao Gianni. Quella tua radio ce l'ho praticamente come me l'hai data in garage, è rimasta perché non ho avuto tempo, e comunque appena avrò il contatto, a proposito Claudio, se me lo mandi, così contatto con la persona e se trovo un attimo, anzi penso e spero di trovarlo, gliela porto, perché tenerla così non è che abbia molto senso, capito? Quindi se riesco a rimetterla a posto, mi fai lavoro una persona competente, la cosa migliore, dai, così la rimettiamo a posto quella radio. Sì, sì, hai fatto bene a ricordarmi, adesso te lo mando il contatto, così quando magari vai a Bonova passando ti fermi della lascia del telefono, è una persona, un amico, quindi poi se hai problemi parla direttamente con Massimiliano, non c'è problema, ma che io lo conosco molto bene, è bravo. Nel caso ti dovesse dire che non c'è tempo, che non è stato facendo, perché per là fammelo sapere, e allora già intervengo io, non ti preoccupare, ma quella radio torna nuova come prima. Ok, adesso ti mando il contatto per me. Grazie Claudio. Sì, spero che insomma che non mi dica di no. Poi ovviamente ognuno è libero di farlo o non farlo, ma qualcun altro lo troveremo per metterla a posto, perché è veramente un peccato quella radio, è da vedere, è un gioiellino, è nuova, capito? E quindi se la riesco a mettere in piedi è già qualcosa. Sì, Massimiliano me l'ha detto, dice che lui non aveva il mio contatto, perché cui mi ha detto a chi lo posso dire, qua c'è la Claudio, anche il mio contatto, oppure Gianni, e così vedo un po' se riesco. Sì, quando vado a Bonorve intanto ci vado nel fine settimana, ma non solo, per cui allungo un pochettino da Bonorve, mi sa che Bonorve sono 18 km, quindi non mi costa niente passarci, e lo contatto così gliela porto. Grazie comunque, Cla. Guarda, stavo parlando l'altro giorno con un amico che non ha problemi a mettere a posto, però l'opzione è migliore, siccome dentro è, vabbè, lasciamo perdere, è l'opzione migliore l'ho già risolta io, capito? Nel caso lui non te la dovesse fare, si toglie la scheda dal Galaxy Punto intera, completa, si toglie quella, si mette la scheda del Galaxy Punto intera, tutto il circuito strappato del Galaxy Punto, 10 minuti e vedi se funzionano come deve funzionare, ok? Perché è così, e ce l'abbiamo già anche la scheda, dai. Comunque ti faccio sapere, adesso ti do il contatto, tu non ti preoccupare, tu parla con chi devi parlare, se era in casa non te lo dovessi fare, già intervengo io. La radio si mette a posto ogni giornata. Benissimo, ti ringrazio Claudio. Va bene, riprendi tu Gianni. Ma sta uscendo basso di radio? Ma non so, aspetta che controllo. No, non stai uscendo basso. Come ti hanno detto è un po' barattolata l'audio, però il segnale è buono. La radio è, insomma, già va bene comunque. È diverso dal solito che era più chiaro, usava il microfono quello preamplificato. Adesso se il microfono normale è ovvio che sia così. Però già ti senti, ti capisci, si capisce bene, insomma. Marco, ci sei ancora? Quando mettiamo il microfono qua lo vediamo. Cosa ci devi mettere lì di microfono? Un microfono nuovo. Marco già lo sa qual è. L'hai già ordinato? No. Sì, già, è capibile, è come se stesse parlandomi tipo così, mettendo una mano al guscio sul mic, che gli dà leggermente quell'effetto barattolato, così, credo, Guarda, parlando di fianco, Marco. Appena meglio, ma niente di che, Megia. Qual è il microfono marcato Star? Non ha preso colpi, no? No, è questo qua, è questo. Qua colpi non ha preso niente, l'apparecchio è nuovissimo. No, a me certe volte un po' mi cadeva dal bracciolo del divano, sbattacchiava, non a terra, sbattacchiava ai lati di questo portatelefono in legno. Però sai, sempre temevo che facesse un po' di danno, eccetera. Riprendete che io vado in cucina e altre cose. E vai, Carlo. No, Marco, c'ho il portamicrofono io. Il portamicrofono, no, io lo poggio qui sul bracciolo, un po' dove capita, qua non ho nulla di fisso, lo sai, tutto. Qui sono, te l'ho detto, 40 cm per 40, il riquadro dove io poggio i baracchini. Ogni tanto li metto uno sopra l'altro con quella gommina antiscivolo delle macchine. È presente quella tutta forata, no? Per non fare scivolare il baracchino uno sull'altro e anche per non graffiarli, se no la staffa graffierebbe il baracchino che c'è sotto. Ok, vai Carlo. L'ho mandata, Carlo. Sì, adesso prendo il telefono e controllo. Chiama quel numero che ti ho mandato e poi lui sa quello che deve fare. In caso contrario non c'è problema, ok? La scheda del Pluto è uguale a quella lì, è uguale, lì dentro il Galaxy Satometro c'è un Galaxy Pluto dentro, quindi si toglie quella per non perdere tempo e si butta nella mondessa tutta intera e si mette quella nuova del Galaxy Pluto. Va bene, si tiene solo quella dell'Ecco e basta, che è una scheda a parte. Ho ricevuto, ho visto adesso il messaggio, grazie, poi ti faccio sapere appena l'ho contatto, domani sono libero, quindi magari provo a chiamarlo a metà mattinata, se mi risponde, vedo un po' cosa mi dice, se no poi ti faccio sapere, grazie comunque, vai Gianni. Chiamalo da adesso Carlo, così domani mattina ci vai direttamente. Pure lo chiamo adesso, sì, lo posso chiamare anche adesso. cosa non ha, glielo riferisco, insomma, come mi dici tu. Non usciva di watt, non usciva di watt. Prima non usciva nemmeno di modulazione, adesso la modulazione esce, ma il watt non li dà. Hai la telefonata a quel numero che ti ho mandato io, parla con lui prima, poi già ci parla lui con Albino. Ok, questo è il numero che mi hai mandato, è di Massimiliano, così, Cla. L'ho scritto sotto, buongiorno, ce l'ha lui il contatto di Albino. Io ce l'ho, però è quello vecchio, ma qui c'è quello nuovo. Capito? Profanare e parli con lui. E lui dice, c'è questo grazie a tu, ecco che non va in trasmissione di pura potenza. E poi, vabbè, dire la verità, è stato già visto e toccato. È meglio sempre dire la verità, perché intanto se ne accorge il dico. Per caso Rovere ti dice qualcosa, mi fai sapere. Se lui ti dice qualcosa di grosso, nel senso che qui la bimbombaccia, cioè, c'è la scheda pronta del Galaxy tutto, lui sa benissimo che è uguale, quindi si toglie quella e si mette quella nuova direttamente. Perfetto, allora dopo chiamo Massimiliano, Bulldozer, così insomma mi dice se lo devo chiamare io o insomma lo chiama lui, io non ne ho problemi a portarglielo, appena è possibile glielo porto, così vediamo, se no faccio così, faremo questo scambio di scheda se la cosa si complica. Bene Mera, grazie Cla. Non so chi ci sia ancora, forse Marco si è spostato, Natalino ci sia ancora? Sì, sono qua. Alla 30 di settembre. Guarda, non c'è bisogno di farlo, devi andare a Bonorba, eccetera. Tu senti cosa ti dice, ma ci vediamo e senti cosa ti dice lui, nel caso vuoi chiamare tu, ok? E tu mi fai sapere a me. Passi a prendermi e ci andiamo assieme, una mattina che sei libero. Ecco, volentieri, certo. Ascolta, lo chiamo tra 5 minuti, dai, così poi nel caso se ci sia ancora in radio ti faccio sapere in diretta. Esatto, così ci parlo io e ve la spiego io la situazione, perché ci abbiamo già tutto pronto, capito? Non è un problema sostituirlo. Se lui dice sì, non c'è bisogno, si può riparare questa, va bene. Se dice che quello non si può riparare, si mette direttamente la scheda del tutto, che è uguale a quella lì. Dentro il Galaxy c'è un punto, non c'è da fare. La scheda è identica, si lascia quella dell'Echo, che è a parte, e si monta, si toglie direttamente le viti, si tolgono tutti i fili, tutte le cose sono a fare, e si piazza quella del Galaxy tutto, che è nuova, nuova, non ce la fa niente, mai toccata. Benissimo, adesso lo chiamo allora, dai, ci sentiamo dopo, un attimo di bianco che chiamo Bulldozer e poi ti faccio sapere. Là. Sì, tra l'altro c'è anche Finale già attaccati, i suoi originali, quindi la radio torna nuova come prima. Va bene, fammi sapere cosa ti dice, se lo devi chiamare tu o se lo chiama Massimiliano. Ok, adesso lo sto chiamando. Roger. Claudio. Nada. Sapevi se Massimiliano aveva risolto quel problema di QRM forte che sentiva? Sì, se non attaccano non si sa che cos'è, se è una pompa di calore, se qualcosa, ma adesso sta facendo caldo, ormai non ce l'ha, quindi sicuramente qualche pompa di calore. No, perché lui mi aveva contattato sapendo che avevo un filtro, però gli avevo spiegato che era un filtro per la trasmissione, un filtro passabasso per non fare dei TVI o comunque per scongiurare il rischio eventuale di fare TVI. E gli ho detto che io non ero a conoscenza dei filtri per la ricezione, per il QRM e per il QRN, no. Ho detto non so se esistono nemmeno, invece esistono e come. Li ho visti, praticamente c'hai due ingressi antenna, una all'antenna principale e l'altra alla secondaria, che può essere un pezzo di filo anche di un metro, proprio un pezzo di filo. E tu c'hai nel modello più semplice, tre controlli, il guadagno dell'antenna principale che deve essere a manetta, e poi c'hai queste due manopole per accoppiare o mandare, aspetta com'era, sì, accoppiare le due antenne E poi questo per ridurre il filtro, cioè ogni volta che però ti sposti di canale, se fai di X, che ne so, se passi da 10 al 45 devi ritirare questa cosa qua, è un po' macchinoso però funziona. Sì, ma non penso sia un problema, capite? È proprio un problema, come si dice, di qualche termoconvertore, qualcosa che attaccano quando c'è freddo, quindi fa così, capito? Gli entra e fa questo cacchio di rumore allucinante. Ma penso che in questi giorni non ce l'abbia, tutto qua. Vabbè, facciamo girare, vediamo Gianni se ha cambiato microfono. Io col 3009 però non stai usando, devi mettere il microfono, c'è cioè, l'altra volta sul 3009 che andava bene, perfetto. Io sono con il mic di serie, ho rimesso quello originale perché hai la comodità dei tastini up down e per spazzolare è comodo. E non tu stai con il microfono normale, è un anno molto più forte di lui, forse la tua c'è la lice aperta, non so cosa gli hai fatto. Allora c'è una voce di menu, è un menu di servizio, no? Non ha trimmer, questa non ha trimmer, questa radio se la guardi dentro non c'è un trimmer, c'è un menu di servizio, gli ho fatto la deviazione FM, però per la M sia che alzi questi valori che li abbassi, questo è il punto ottimale ed è quello di fabbrica, non, se li alzi e li abbassi e si abbassa la radio, quindi credo che questo sia come se dalla fabbrica, capito? Omologato, non puoi fare niente, te lo devi tenere così, se vuoi uscire più forte metti un amplificato. Gianni, vediamo se ha messo il mic. Prova, 1, 2, 3, prova, sì. Certo è roba così, cibo da mensa è il microfono originale, però già funziona, per i questi locali va bene. Sì, ah, grande, andando benissimo, non c'è problema. Tutto fra tutto. Mi sa che mi allontano un attimo dalla radio, vai, ditele a Carlo se non rispondo alla radio devo lavare la macchina, adesso c'è fresco, se non rispondo alla radio devi farmi un colpo di telefono, ok? Claudio, ho provato a chiamarlo ma non mi ha risposto, gli sto scrivendo un messaggio su WhatsApp, capito? Mi ho salvato anche su WhatsApp il contatto e magari lui ha visto un numero strano, ha pensato fosse qualche call center oppure non poteva rispondere, per cui gli mando un messaggio e già si farà sentire subito. Ecco qua, ho messo il microfono. Sì, tanto, Marco. Allora Gianni, scusate se ciancico, ma questo mi sembra già più naturale con modulazione. Fai un passaggio lungo. E guarda, 1, 2, 3, prova. Hola, prove tecniche in trasmissione. Ma con un citofono, ma quella era l'altra volta la radio, Marco. Però questo è migliore dell'altro, è meno barattolato. Meno barattolato, però sì, mantiene appena, non lo so già da cosa dipenda poi. Che dire, Mino, li mettiamo paranoie, che poi Gianni si assilla però. Vabbè, io non ho per tenere palle, se volevo controllo volevo giusto, non è che perché lui si assilla, devo dire sì, va bene, e a me non piace la modulazione, sembra un citofono, non è questo il microfono che io ho sentito a Gianni col 3009, l'ho detto anche che andava benissimo, non lo so io se ne ha messo un altro, cosa ne so? Quello Claudio è morto, mi è caduto in terra e si è sfasciato, si è rotta la calcia. Vedi, allora dimmi come cosa è successo, perché io ti ho sentito col 3009, era spettacolare la modulazione, ne abbiamo anche parlato, questa è, se non c'è citofono, non so, io ti sto ascoltando col K, ma posso anche ascoltarti in DSP con 920, ma mi sembra che non cambi niente. Marco, perdonami, ma io se devo avere un controllo, se poi la gente si offende, se poi vuol dire che va bene, io dico va bene, ma a me non piace, la modulazione non mi piace, sembra che sta parlando con una cornetta, una micro cornetta. Gianni, ma adesso che mic hai messo? Il Super Sidekick. Super Sidekick. Vabbè, diciamo che è un po'... non la definirei come citofono, però un po'... una non lo so, come se avessi il trimmer chiuso tu nel 3009 della M, ma l'hai richiuso per l'omologato? Cioè, questo non l'ho toccato, mi è arrivato dalla fabbrica così. No, è come se fosse un po' basso di toni. Vabbè, che dire, vabbè, anch'io l'ho sentito in condizioni migliori, quel 3009, l'ho sentito un po' più limpido, mi ecco. Ma stai spingendo più tu, ma ti devo reggettare tutte e due. Stai spingendo più tu con il microfono normale per lui. Se quello non per più tre, non sta spingendo, no? Non c'è tonalità, non c'ha medio bassi, non c'ha acuti, non c'è niente. Sembra una microcornetta. Carlo, come lo senti tu? Gianni, il Mickey Gain del 3009 è già a manetta, sì. Ascolta, ma Gianni dice Claudio. Sì, io lo sento, se mettiamo l'anno con un microfono normale, da palmo, se quello è il termine più tre, ma sta spingendo. Allora, l'abbinamento non è giusto con quella radio, non lo so. Vabbè, comunque qui un po' Gianni, ti saletta, fai qualcosa, non so. Alla fin fine andrebbe meglio con l'altro microfono. Sicuramente sarà cambiato il microfono di nuovo, Gianni. Era una bella radio con 3009, usciva molto bene, ho fatto anche delle prove, gli è caduto per terra. È un casino, i microfoni da palmo, io li odio per quello, se dichiarano si spaccano, io solo microfono da palmo, microfono da palmo, no, ne voglio, manco, se c'è un cassetto pieno di microfono da palmo. Ogni radio c'è il suo microfono di tavola. Non piace il microfono da palmo. È una questione di convenienza, di comodità. A me mi interessa più quello da palmo che quello da tavolo, perché nel letto il microfono me lo avvicino. Guarda come va questo. Uguale all'altro. Se non va bene, Gianni, attenzione. Non sta spingendo, no? Il timer deve spingere, non sta spingendo, ma ce l'hai a manetta. Non è il timer, questo qua è un altro microfono. Questo va meglio, sì, c'è l'eco qua. C'è l'eco. Ma la posso anche abbassare l'eco, guarda. Questo qui dovrebbe andare meglio, sì. Prova a vedere come va. Questo è nettamente superiore, questo va molto meglio. Ma sai perché già? Perché c'hai poca potenza, quindi sei al limite della propagazione, è per quello che ti disturba. Però questo già mi sono accorto che va molto molto meglio dell'altro, vero Marco? Sì, molto molto, più squillante, più limpido. C'è qualcuno sotto col bip che chiama, avanti. Avremo. Ehi Antonio era, ciao Anto. C'è Carlo, Claudio, Natalino, Gianni, chi altri c'era? Anche Antonello, ciao Antonio, ben entrato. Uè, buonasera a tutti, là. Buggi, sono entrato un attimino. Ciao Antonio, ho presentito. Ciao già. E allora? E allora a me, e no, chi gioco. Ancora lavorando? Eia, perché non si vede il segnale? Ecco, per me devo lavare la macchina dopo. Eia. No, non le sto controllando il segnale. Ehi. È diverso da casa. Come ti sta arrivando lì di radio? Benissimo. Santiago. Cazzo, ho aumentato, 9.20. Vai bene Gianni, adesso con questo microfono è meglio dell'altro che avevi. Questo c'ha un leggero eco, però è chiaro, questo è anche più forte dell'altro. Vabbè. Ma l'altro va bene, è forte, se lo secondo che baracchino lo metti l'altro è forte. Suga, ma cosa hai combinato? Adesso stai dicendo di segnale. Perché sto usando un'altra apparecchio adesso. Quello mi piace di più. Prova 1, 2, 3, prova. Avanti. Sì, Claudio, Gianni, questo è il 3009, quello col trimmer non aperto, e il microfono Star originale, quindi questo è il 3009 omologato. E già esce bene, la radio è un po' più bassa, ma già esce bene. Ehi, volevo sentire da Claudio, per capire se era diverso da quello lì, se sente la differenza lui, perché la dovrebbe sentire, dal mic originale. Ma quale che ti si è rotto già, il mic originale? No, il pacco originale è nuovo. Quello che gli avevo messo è quello che le avevo fatto io, quel microfono che avevo fatto una composizione. Mi è caduta e si è lasciata la capsula. Peccato, vabbè, se la capsula comunque è reperibile puoi cambiare solo quella e torna funzionante. Ma non è di chi sa del telefono, che si bianchi, ti andano bene. Ah, me lo compro nuovo il microfono, se c'è qualche anima buona che me lo ordina, me lo prendo quello là. Ti ho mandato il messaggio. Cava. Adesso Natalia, meglio mi senti? Ma che microfono è, scusa? Sì signora. Questo è l'Echo Master Plus, per chi me l'ha chiesto. No, ho detto, che microfono ti sei fasciato? È uno che avevo fatto io e mi è caduto in terra, si è fatta la capsula. Dai. Vabbè, ma non ce l'ho più, l'ho già dato, non mi interessa, dai. Io, a me, quando si faccia la roba, cioè, a contarla, a farla, non ne ho più voglia. Prima lo facevo, adesso non ne faccio più. Sono un pareggio, boh. Non mi devo assillare, ho altre cose da fare di più importante. Vabbè, riprendete, dai, rimetto il microfono che c'era prima. Attenzione, mi. Sì, già. Ti arrivi sempre bene, sempre fondo scala, non ci sono problemi. Quando sei a casa è tutta un'altra storia poi, però già arrivi bene anche da lì. Vabbè, a casa avrò un'altra qua non è uso. Chiaro già, se arrecchino che in casa allora è una trattoria vero. Forse c'è stato un break qua sotto, avanti il break. Ciao Carlo, buonasera a te e a tutti gli altri in ascolto. Tutto bene da questa parte. A Gianni lo sentivo bene, a Gianni di Opiorun lo sentivo benissimo con questo microfono, l'ultimo microfono che ha messo adesso. No, ma chi sei? Vanni, buonasera, ben sentito. Oh, ciao Vanni, buonasera. Da dove è Vanni? Da dove modula? Terzo pettine. Positivo. Ah, sì, mi ricordo adesso. Sì, mi senti Vanni lì a terzo pettine? Giovanni, lo senti Antonio? Sta modulando da quel di zona via Milano. Hola, aumentiamo, dai. Se te può cominciare il metro, forse lì al mare prende tutto quanto il casino. Attenzione Vanni, mi senti? Salutalo comunque Carlo. Guarda che ti sta chiamando, non lo senti proprio. Vanni? Sì, beh, ho inteso, a che cosa ho inteso? Poi chi va a romare il biglietto? Ho aumentato la potenza adesso. Vediamo un po', Vanni, mi senti? Se parla in sassarese, se è lui che stava parlando in sassarese, forse sì. Già sono io, già. Ciao Antonio, buonasera. Sì, ti sento, basso ma ti sento. Capo, ho dovuto aumentare tutta la potenza per sentirmi. Perché purtroppo tu c'hai, cioè, che casino, c'hai, cioè, capito? Per quello che non mi senti. Come ieri, c'è un casino di propagazione, cazzo, si sente molto disturbato, Vai a mangiare la troppa da un'altra parte, tu vai. Io infatti metto lo squelch alto, se no si sente tutto quello che c'è sotto, capito? Eia, si sta sollevando, si sta adesso. Sì, ieri c'erano i tedeschi, per esempio, in FM. Erano una maledizione, perché il segnale FM, la modulazione FM, anche se è sotto il tuo segnale, si sente molto, capito? Passa di più. Sì, poi esce l'FM, diciamo, puoi caricare anche più watt, quindi probabilmente anche per quello. Io ho aumentato parecchio, con 21 watt adesso. Già si vede, Anto, caldo c'è da quelle parti. Sì, ma perché pure la te è troppo alla palla adesso? Adesso qua si respira, si è sollevato un venticello e a casa mia si sta bene. Sono in pantaloncini però, Hola! Sì, avanti già. Questo è l'Intec, stazione base, come sta andando? Benissimo. Cava, vabbè, almeno uno che esce bene ce lo va. Sì, a vedere un apparecchio buono. Dove il microfono del Papa. Bianco per me. Sì, vabbè. Che cosa, Carlo? Il microfono del Papa, questo che stai usando adesso. Oh. Posso anche Le piace, te? Bello potente. Maria, ti piace la radio, Carlo? Tu è senza eco, ma è bella. Cazzo. Cosa hai combinato, Natali? Nulla, perché? È bella potente. Arrivi. Cosa hai detto? La pernacchietta, Santiago 2. Questo qua esce con due fax e va bene lo stesso. Non lo credo. Avanti Giovanni, cosa ci racconti da quelle parti? Ero giusto di passaggio, dai. Devo lasciare questo. Giovanni? Sto facendo i lavori. Siamo alla prossima, un saluto a tutti. Ci abbaccio un po' caretto in occhi. Scendendo, si andava a vedere. Ecco qua. E a Giova, ce la risentiamo. Quando vuoi bussa, già siamo qua in chiacchiera noi, ce la metto. E ce la vediamo allora. Vedi già, va se dopo. E adesso sei tu, eh? Ma la luce gusta. Ma cosa luce? Ma che luce? Avete regattato i zibons. Cioè, no, si tratta di valvole, no? Non credo che consumi molto un microfono del genere, dai. No, dico, se sali su di potenza, no, non li fate nulla. Bucate che non tratti di valvole. Allora sì che la luce gusta. Fatela bravi. Ehi, avanti. Ciao tu. Fatela bravi. Gianni 9.30 mi arriva qua, va benissimo, non c'è problema. Anche gli altri, a dire la verità, anche gli altri. Ciao Carlo, volevo farti vedere un video, ti volevo far vedere, però purtroppo non te lo posso mandare perché non ho il tuo recapito telefonico. Pazienza, non fa niente. Ciao Giulio, buonasera, ben entrato. Manda Gianni se hai il tuo, così se lo salvi e me lo puoi mandare, così io mi salvo il tuo contatto, Giulio, volentieri. Gianni, glielo puoi mandare a Giulio il mio numero di telefono, così mi metto anche lui nei contatti. Io vedo se lo trovo a Giulio, non me lo ricordo se c'era il numero. Perché neanche io ce l'ho quello di Giulio, eh. Anzi, mi state facendo 9.30, adesso un po' più basso, però va benissimo. Forse quello più piccolo sono io, eh. Praticamente io sto scendendo Giulio con due watt con cacchie, tu con due, io con uno, Gianni, uno solamente, niente di più. Il microfono normalissimo, una staffonetta piccolissima, originalissima, senza nessun problema, va benissimo. Giulio, da me Santiago 9, Radio 5, qua mi arrivi molto molto bene, se stai uscendo con un watt, più di quello non ti posso dire. Sì, va benissimo, tu adesso mi hai fatto 9+20, mi hai fatto, oh Carlo, 9+20, la radio non si discute, fa troppo bene, per cui va bene così. Ok, anche Antonio arriva bene, dai, Santiago 8, più o meno, 8, 8 e mezzo, ma essendo molto lontano, va bene così, vai tu. Cappa, sicuro che sei Giulio? Sicuro, non c'è problema. Eia, ho alzato un po' adesso, com'è? Quasi 9, niente di particolare, non è che ho aumentato quella che. Tieni presente che ho lo smitter a barrette, cioè a LED, per cui non so quanto possa essere affidabile. Vabbè, dai. No, ti volevo dire una cosa, ma come stai utilizzando così pochi fatti? Perché sto usando questo tipo, così, ma va bene, non c'è problema. Tu pensa che l'altro giorno mi hanno sentito in Puglia, vabbè, c'era la propagazione, il miracolo della propagazione, con un fatto mi sentivo in Puglia, a Trani o qualcosa del genere, dai. Non sei fortissimo il segnale, la verità ti dico. Vabbè, comunque già arrivi lo stesso. Penso di sì, perché mi sente Claudio, che è anche più lontano di te, per cui va bene, mi sentono nei paesi, a posto, a Muro, mi sento, insomma, un po' dappertutto, va bene, dai, non ho pretese io di potenza, niente, non me ne frega niente, quando mi sentono mi va bene così, sono contento così. Ciao, sentito a Claudio Di Muros, ma che fine ha fatto? Bicicletta, magari sta uscendo in questo periodo e sta entrando meno in radio, perché questo è il periodo che si esce parecchio in bicicletta, capito? Chi fa quell'attività lì sono tutti i giorni sulle strade, li vedo. Cavolo, ma manco una buccia, non l'ho più sentito, secondo il convinto che qua mi arriverebbe molto molto bene da Muros, minimo con quasi 9.30 arrivi, perché Muros ce l'ho qua. Eh sì, anche da me arriva forte Claudio. Una volta mi ha detto che la sera sul tardi entrava sul 40 e modulava con gli amici della zona di Ozieri, eccetera, ma io non l'ho sentito neanche lì, non l'ho più sentito anch'io, sarà forse un mese più che non lo sento. Ciao, ha curiosità di vedere quando arriva qua, sicuramente avrà un bel segnale. Sì, Muros in linea d'aria da dove sei tu, Anto, non è distante, c'è quel salto e poi è là dietro, capito? Ma tu dovresti arrivarci bene lì a Muros. Ebbene, sotto scala di gioca, o no? Cioè, proprio un po' e poi arrivi. A voglia. Comunque è vero, Giulio l'altro giorno con un VAT ha parlato con la propagazione, con Sud Italia, Trani, c'era Bari, collegamento, i giorni scorsi siamo riusciti a collegare un sacco di posti, l'altro giorno la Sicilia, insomma, quando entra la propagazione già fa piacere sentire gente lontana, diciamo, dalla Sardegna. Vai Giulio. Ok Carlo, sì, beh certo. Vabbè, quello è il miracolo della propagazione, perché chiaramente con questa potenza non è che si può sperare di sentirsi persone troppo lontane, assolutamente. Ma per la città va più che bene, dai. Anche per qualche zona limitrofa a Sassari va bene così, non c'è problema. Vai, riprendi. Ah, io l'anno scorso arrivavo sempre a fondo scala, arrivavo da ovunque sia, capito, in Sicilia, in Calabria, un sacco di posti, sempre a bomba, sempre, sempre, si appagò già. Come ha detto Giulio, il miracolo della propagazione, a volte si apre verso il sud, a volte verso il nord, insomma, quando c'è questo fenomeno già è bello, dai, già si fanno un sacco di collegamenti. E ho visto anche in FM l'altro giorno, c'era un sacco di gente del sud Italia, molti trasmettono in FM, noi siamo affezionati alla M invece. Vai Gianni. Dimmi, niente, uia. No, già non c'è una cosa, no, io passavo a tutti, passavo anche a quelli di lì. Dice, ma non sei sicuro che sei in Sardegna? Già sono in Sardegna già, ma c'è un motivo, c'è. C'è voi cosa a palla ci avevo. Poi se attacchi, se esci con più di 20 a voglia, già va bene, però a volte con 3-5 watt riesci a fare lo stesso collegamenti così quando c'è la propagazione. Gianni, ci sei ancora? Sì, 200 vuoi dire? Chi ce li ha? Io già non ci arrivo a quei watt. Ma io già vedo Giulia, attaccavo tutti i 200, lo sai come passavo a tutti, ero numero uno, ero, cioè proprio passavo per una cosa che non è manco un'idea tu, cioè gente che nella stessa città, ripassavo tutti quanti, ripassavo, cioè arrivavo un segnale che era una cosa paurosa. Cioè ti puoi immaginare, più scaldava più pompava, più scaldava più pompava. Infatti poi già mi ha pompato bene, la mazza che ne fare, vabbè non è arrivata cara a cara. Basta moderare il vato, Anto, se no arrivi troppo forte, abbassali un po' e se no la bolletta davvero ti arriva salata. Natalino, ci sei ancora tu? Ci sono, ma sto mangiando, Carlo, vi ascolto, va.